Un salutone a tutti e tutti, è nuova puntata di Senza Frontiere, la rubrica internazionalista, e va in onda tutti i lunedì alle 13.30 e in replica dal martedì al venerdì sempre alle 13.30 su Radio Wombat. Potete ascoltare Radio Wombat, anzi la state ascoltando in streaming dal sito wombat.noblogs.org, e da alcuni giorni la potete ascoltare anche in alcune zone di Firenze sulle frequenze AM 1359. Ricordiamo anche che Senza Frontiere, così come tutte le trasmissioni di Radio Wombat, le potete riascoltare, scaricare e riascoltare, oppure ascoltare direttamente in podcast andando all'apposita sezione di Radio Wombat, appunto la sezione podcast, in cui sono elencate in ordine alfabetico tutte le trasmissioni di, appunto, di Radio Wombat, fra cui anche Senza Frontiere. E oggi siamo qui con due rappresentanti dell'associazione Amicizia Italo-Palestinese di Firenze, che appunto ci illustrano, essendo anche la prima puntata che parla, che tratta di questa tematica, ci illustrano un po' innanzitutto la situazione attuale in Palestina, ma anche le loro iniziative per supportare la resistenza palestinese. Ecco, diciamo sì. E chiediamo subito appunto a Leonard una panoramica, ecco, di quello che sta accadendo tuttora in Palestina, e che al di là diciamo delle grosse, delle terrificanti operazioni israeliane di bombardamento, che attualmente diciamo sembrano un po' più acquietate, ma che in realtà c'è uno stillicidio quotidiano diciamo di morti, di depredazione, di vessaggio, diciamo, del popolo palestinese. Bene, grazie. Innanzitutto mi chiamo Leonard Cefal, chiamato Leo, dell'Associazione dell'Amicizia Italo-Palestinese, un'organizzazione che opera su Firenze in Toscana dal 2004. Siamo contenti, io personalmente molto contento, che una radio ci dia l'occasione di parlare della Palestina. E, se dobbiamo parlare della Palestina, io credo un libro appena uscito trova molto bene la situazione in Palestina, che si intitola Il lungo cammino della Palestina, a cura di Alessandra Mecozzi, recentemente anche presentato al CPA. Io avrei dato a questo libro un altro titolo, 100 anni di sofferenze, tirannia, ma anche resistenze del popolo palestinese. Per quale motivo 100 anni? Dovremmo dire quasi 101. L'anno scorso ci sono stati due anniversari. 100 anni della cosiddetta dichiarazione di Balfour, in cui il ministro degli esteri britannico ha garantito al mondo ebraico mondiale non uno Stato, ma un focolare nella Palestina antica. E questa dichiarazione è stata sempre usata dal mondo ebraico, soprattutto poi sionista, per confermare, per dire, ma loro già a suo tempo ci hanno promesso uno Stato, che non è vero uno Stato. E poi un altro anniversario, ancora quasi tutti noi ci ricordiamo, la guerra dei sei giorni del 67, oppure possiamo dire 50 anni di occupazione della Palestina. Quest'anno, il 2018, abbiamo un altro triste sempre anniversario, 70 anni della cosiddetta Nakba. Cos'è la Nakba? In arabo Nakba, in italiano catastrofe. La catastrofe perché? E sono 70 anni che il neo-stato di Israele, le sue forze militari, che ufficialmente non esistevano ma c'erano già molto prima, anche come bande, come milizie, hanno espulso circa 800.000 palestinesi, soprattutto dalla terra più fertile del nord, Nazareth, per i non per cristiani e non in quella zona lì, ammazzato si può dire 10.000 palestinesi, distrutto centinaia di villaggi o di quartieri. Diciamo, questa è più o meno la situazione attuale. D'altra parte, questo è un appello che a suo tempo faceva già Nelson Mandela. Noi sappiamo benissimo che la nostra libertà non può dirsi compiuta senza la libertà dei palestinesi. E questo è detto da un uomo che ha combattuto tutta la sua vita per la libertà, dovrebbe dirci qualche cosa anche sulla situazione attuale. Io credo, noto a tutti, il muro che taglia ulteriormente la poca parte della Palestina. La Palestina originale, se diciamo nel 1947 100%, ora siamo arrivati con l'occupazione del poco rimasto della Palestina d'origine al 12% della Palestina d'origine. E poi oltre in questi 12% ci sono i coloni e ultimo, e poi c'è Gaza, e si può dire quasi 2 milioni di palestinesi in una prigione a cielo aperto. E passo all'amica. Salve, io sono Laura Marcheselli, e faccio parte in realtà di Assopace Palestina, l'associazione di Luisa Morgantini, fondata da Luisa Morgantini, ex parlamentare europea. Ma stasera invece però parlo qui come attivista di un'altra associazione che si chiama Operazione Colomba, di cui anche si può vedere un sito molto interessante con tutte le notizie dei progetti fatti in Palestina, ma anche in Colombia, anche in Libano e anche in Albania. In particolare io invece sono, pur essendo, non avendo affatto il profilo della volontaria sul campo, perché sono una signora ormai di 65 anni, sono andata già 3 volte, ora vado per la 4ª volta in Palestina, in un villaggio che si chiama Attuani, che si trova nelle colline a sud di Hebron, vicino alla linea verde appunto del 67, di cui si parlava prima, al di là di una strada che si chiama Bypass Road, numero 317, che è ad uso esclusivo degli israeliani. Questo villaggio Attuani è la porta di altri 14 villaggi, dai quali gli israeliani nel 99 avevano evacuato tutta la popolazione, perché quella è una zona chiamata Firing Zone, dove loro vanno a fare gli addestramenti militari e anche forse delle cose con le bombe, non si sa bene, passano sempre degli aerei sopra il villaggio, vanno in questo deserto, perché lì c'è il deserto del Negev, noi siamo proprio ai limiti e vediamo dalle colline, vediamo la Giordania, fate conto. È un posto lunare, un posto bellissimo, dove io sono andata la prima volta appunto facendo un viaggio con Assopace, e dove quando la mattina del 31 dicembre del 2015 siamo entrati in questo villaggio, io ho pensato che volevo andare lì. E poi, avendo dovuto affrontare qualche difficoltà, perché naturalmente l'associazione non era tanto disponibile, perché i volontari hanno tutti dai 20 ai massimo 30 anni, io ero l'unica zia nonna che faceva questa cosa. Poi però mi hanno fatto partire, quindi sono partita nel 15, nel 16, nel 17 e adesso ripartirò, spero non per l'ultima volta. Io di solito sono solo un mese, invece i volontari ci stanno 3 mesi, quanto dura il visto che da Israele, perché purtroppo da Israele bisogna passare sempre e si rischia sempre di essere rimandati indietro. Io passo inosservata. Ci sono stati dei problemi precedentemente, te oppure gli altri volontari? Sì, io no, perché appunto essendo una vecchia signora, con il mio troll loro non hanno capito dove vado, ma invece tutti i giovani che arrivano magari con lo zaino così, sì, tanti dei nostri ragazzi sono stati mandati via e devono tornare indietro e non possono più rientrare, gli danno una specie di foglio di via senza dire perché per 10 anni non possono più rimettere piede in Israele, ma soprattutto in Palestina. La Palestina non ha più un aeroporto e quindi non ha niente, non si può entrare se non attraverso Israele. Quindi noi perché andiamo in questo villaggio? Attuani, ricordatevelo, perché lì è l'unico posto dove c'è la scuola, è una scuola che va dai 6 anni ai 18 anni, cioè c'è la scuola elementare, le medie e il liceo, quindi noi abbiamo ragazzi dai 6 ai 18 anni, ma i ragazzi degli altri villaggi attorno vengono a questa scuola, in particolare sono i ragazzi di un villaggio che si chiama Tuba. Questi ragazzi devono passare per una strada che, così ha voluto non si sa bene chi, sotto due colonie israeliane, cioè due insediamenti illegali fatti dagli israeliani. Uno è un insediamento illegale che andava via il corso del microfono. No, lì no. Uno è un insediamento illegale per l'ONU e diciamo per la comunità internazionale e si chiama Maon. L'altro è un insediamento, un avamposto illegale anche per Israele che si chiama Avat Maon. Questi due insediamenti con i loro coloni sono appunto sopra questa strada, che è una strada, sono 10 minuti di strada, ma i bambini sono stati attaccati, picchiati e nel 2004, no, forse nel 2003, è stato picchiato un volontario americano. Questo naturalmente ha fatto un gran chiasso, perché gli americani sono alleati di Israele. Quindi Israele ha dovuto, torto collo, decidere che questi bambini avevano diritto ad andare a scuola. E quindi devono essere accompagnati dai soldati israeliani per quel tratto di strada. Sono solamente 10 minuti di strada. Quindi il paradosso è che i bambini e ragazzi che vanno a scuola in Palestina devono essere accompagnati per un tratto di strada dai soldati israeliani che li difendono da dei coloni israeliani. Allora, che cosa facciamo noi di Operazione Colomba? Noi siamo tutti italiani, è una piccola associazione di Rimini. Noi siamo almeno in 4, 2 su una collina e 2 sull'altra, con le cineprese, con i telefoni e con tutto quello che può servire per monitorare e per per mostrare quello che succede. Aspettiamo che vengano i soldati. Se i soldati non arrivano, telefoniamo al comando, telefoniamo agli avvocati, telefoniamo ai soldati. Se i soldati non arrivano alle 7:30 di mattina, andiamo a prendere i bambini di corsa e gli facciamo fare una strada lunghissima che dura quasi 2 ore, per cui quando arrivano a scuola, la scuola è già bella che finita. Questo lo facciamo tutti i giorni perché il villaggio 365 giorni all'anno e accompagna i bambini a scuola, accompagna i pastori a pascolare nelle loro terre dove non vengono lasciati andare e accompagna i contadini a fare la semina, eccetera. Al momento mi fermo un momento, vado avanti. No, magari ci potevi dire come si è evoluto nel tempo, ecco, questo progetto. Questo progetto ha avuto un grande, diciamo, successo, fra virgolette, perché noi naturalmente siamo andati lì perché siamo stati chiamati dalla Resistenza Popolare Non Violenta palestinese, che sapevano, perché Operazione Colomba faceva anche un progetto in Israele, da cui invece poi, cioè a Gerusalemme, da cui è stata mandata via dagli israeliani, e sono stati chiamati appunto per andare a fare questa operazione sul posto. Cioè l'Operazione Colomba credo che sia l'unica associazione al mondo che vive nelle comunità, con le comunità che sono in uno stato di conflitto, e fa una sorta di interposizione. Noi quello che dobbiamo fare è fare abbassare la tensione e soprattutto prendere le bastonate noi, ma far sì che gli altri possano scappare. E questo dal 2004 al 2017 ha portato in quella zona che è a sud di Hebron, quindi siamo nel sud della Cisgiordania, a una situazione che sembra, rispetto a Gerusalemme, rispetto a Nablus, sembra un paradiso. Perché naturalmente col fatto che noi parliamo con i soldati, parliamo con i coloni, andiamo avanti, accompagniamo la gente, loro stanno molto più attenti e non fanno quelle violenze che fanno se no regolarmente in tutti gli altri posti. E soprattutto, anche se noi non potremmo essere lì, cioè ufficialmente noi lì non ci possiamo stare, però tutti lo sanno, c'è una specie di status quo e ci lasciano stare, salvo ogni tanto venire e mandare via qualcuno. Adesso lì violenze ne fanno molto meno, soprattutto quelle nei checkpoint, perché lì, vi dicevo prima della bypass road, quella è una strada che possono fare solo gli israeliani, ma è una strada che taglia la Cisgiordania, per cui i ragazzi che vanno all'università devono attraversare a piedi questa strada per andare poi a Yatta e a Hebron. Ma lì spesso ci sono dei checkpoint volanti, dove i soldati israeliani fermano la gente per ore, li fanno levare la giacca, li buttano la roba per terra, insomma gli fanno anche delle angherie assurde. E noi, appena ci avvisano, perché ormai c'è tutto un sistema di telefono, di cose, tutti quanti, tutti i bambini, tutti hanno le telecamere, corriamo giù da casa e andiamo lì a rompere le scatole. Ecco, parlavi prima di un componente, di questa associazione statunitense. Quindi è un'associazione italiana però a cui si sono aggregati altri soggetti, oppure di no, altre nazionalità, oppure diciamo una ramificazione lì nel villaggio? Ci sono solo gli italiani, poi ci sono delle associazioni che vivono a Hebron o a Yatta, cioè le città più grandi, che sono Yatta 12 km, Hebron non so, una trentina, ma per un palestinese arrivare a Hebron vuol dire più di 2 ore di strada, anche se ci vorrebbero forse un quarto d'ora arrivarci. Perché quant'è la distanza? Quella che devono percorrere, che ci mettono 2 chilometri, cioè, ci mettono 2 ore, scusate. Perché loro devono andare prima con un taxi o con qualche cosa, devono andare fino a Yatta o a piedi, che sono 12 chilometri. I ragazzi la mattina escono alle 6 per andare all'università, vanno a piedi fino a Yatta, poi lì prendono un service, cioè un taxi collettivo, e da lì fanno, passando per le colline, ma non per la strada diretta tagliata, devono andare su e giù per queste specie di montagne, perché lì è tutto così, è un territorio molto anche scosceso, devo dire che andarci a piedi come noi che andiamo a piedi è faticoso parecchio. E quindi per andare all'università la mattina, per arrivare alle 9, loro devono uscire di casa alle 6, se va bene. Ma non solo, se c'è il checkpoint, così come i lavoratori che vanno poi a lavorare, per esempio a Gerusalemme Est, che sarebbe stata sempre Palestina, nonostante adesso Trump abbia detto che quella è la capitale di Israele, devono passare tanti di quei checkpoint che vanno, escono di casa, gente che io conosco, amici diciamo del villaggio, alle 3:30 del mattino per cominciare a lavorare alle 8, se arrivano a lavorare. Ecco, parlavi appunto di una sorta di monitoraggio, è possibile anche, diciamo, seguirlo in rete? Ci sono aggiornamenti e dove è possibile trovarli? Ecco. Sì, sì, su Operazione Colomba, sul sito che si chiama proprio Operazione Colomba, basta fare cliccare così, si vede scritto Palestina Israele, ci sono tutti i video che noi mettiamo, i report, e poi noi però mandiamo tutti i giorni a i pacifisti israeliani di Bethlehem che collaborano con noi, perché vi devo dire che il sabato quando non lavorano loro vengono aiutare noi. Loro gli avvocati sono avvocati israeliani, perché una causa può essere fatta da avvocati israeliani e non da palestinesi, quindi sono loro che raccolgono tutto il nostro materiale, noi lo mettiamo in rete, noi abbiamo monitorato tutti i ritardi dei soldati, quando c'è, cioè, tutte le angherie, tutto quanto, ogni giorno abbiamo, ogni sera noi dobbiamo fare questo daily report, e in cui scriviamo a che ora sono venuti, quanto abbiamo aspettato, quante telefonate, e questo, e poi tutti gli anni abbiamo questa cosa che ormai sono dei faldoni, perché dal 2004, quando dicevo appunto gli stranieri, ogni tanto vengono, c'è una certa Cassandra che è una missionaria, credo, evangelista, ogni tanto lei, anche lei ci va, che è vecchia come me, ma lei è una appunto che scende giù ogni tanto dalle montagne e viene lì a aiutare, altrimenti sono i nostri ragazzi che sono appunto da un minimo di 4 a un massimo, si può essere anche 8-9, in una casa, al pian terreno, umida, si dorme per terra, senza acqua, senza negozi per comprare da mangiare, se posso dirvi, è una vita durissima, più dura di quella che fanno i palestinesi, perché loro giustamente le loro case se le sono fatte un po' meglio, anche perché Attuani è l'unico posto che ha il piano regolatore, quindi lì si può costruire. Tutti i villaggi attorno sono costretti a dormire nelle grotte, nelle tende, perché gli buttano giù tutto, qualunque cosa loro costruiscono. Ho detto abbastanza? Per ora sì. E appunto gli volevo chiedere a Leonard, in questo caso appunto ci ha parlato prima dell'operazione Colomba e quindi di una situazione particolare, ecco, però tutte queste discriminazioni, tutte queste difficoltà nel vivere quotidiano si riscontrano anche e soprattutto in tutte le, diciamo, le zone, le parti palestinesi, sia nella striscia che nella zona più a nord, e tra l'altro non sono neppure contigue tra di loro. Ecco, volevo chiedere a te un po', ecco, com'è la situazione quotidiana sia rispetto ai checkpoint, sia rispetto alla mancanza di energia elettrica, all'embargo, sia il continuo depredamento anche delle risorse palestinesi, da quelle, diciamo, dei pastori che vengono privati dei loro greggi, alla difficoltà nel pescare nel mare davanti a Gaza, ecco. Allora, tra un po', esattamente il 30 di marzo, c'è la giornata internazionale per la terra, palestinese, poi l'avrei detto alla fine quali siano i prossimi eventi. Il 31 di marzo saremo in Piazza della Repubblica per un presidio per ricordare la terra rubata, e questa è anche la situazione attuale: rubano le terre, tagliano gli ulivi, ammazzano le pecore, e questo, queste cose fanno soprattutto i coloni che ora in quella striscia, non la striscia di casa, ma in realtà quella gruviera che è rimasta della Palestina originale, succede ogni giorno. Questi sono soprattutto i coloni che ormai sono diventati quasi 500.000 in questa terra. Ho davanti un manifesto che cercherò di spiegarvi anche la situazione attuale. Nel 1946 gli insediamenti ebraici erano uguali, ossia all'incirca 12%, uguale alla situazione attuale dove si trovano i palestinesi, 12%, e peggio ancora, perché come dicevo sempre che sia una gruviera, perché come ha detto già prima Laura, perché per andare da un posto all'altro i palestinesi devono fare vie viuzze secondarie, terziarie per arrivare, facciamo un esempio, per andare da Firenze a Prato può anche essere che ci vogliono 4-5 ore o anche di più, con checkpoint in mezzo, oppure perché le vie dirette, tipo autostrade, superstrade, queste sono le strade degli israeliani. E gli altri devono fare strade con macchine, che è successo sicuramente anche a Laura Scangarato, questi taxi collettivi, e fare deviazioni enormi per arrivare al posto. Per quanto riguarda queste strade, mi è venuto in mente ora un esempio. Io ho avuto il piacere di conoscere nel 2006, se non erro, 2004-2006, la Felicia Langer, che è un'avvocatessa israeliana, premio alternativo Nobel per la pace, e lei ha detto: quando sono stato l'ultima volta giù con mio marito, ambedue allora ebrei della Polonia, sono sopravvissuti all'olocausto, erano fortunati perché erano nella parte occupata dai soviet della Polonia, emigrati poi in Israele, e andati via da Israele. Lei è stata il primo avvocato, o la prima avvocatessa, avvocata, diciamo così, no, per differenziare, non soltanto la prima, ma la prima donna avvocata in assoluto, che ha difeso palestinesi, ha avuto il più alto riconoscimento dallo Stato palestinese. E cosa ha detto lei? Quando è stata giù l'ultima volta, sarà stato, allora io l'ho conosciuto nel 2006-2004, ha detto mio marito, che nel frattempo è morto: ti ricordi, Felicia, quando siamo stati sotto occupazione nazista, non potevamo nemmeno usare il marciapiede. E adesso abbiamo strade solo per noi. Naturalmente detto con grande disprezzo per questa politica israeliana. Dicevo, allora, la giornata della terra che viene rubata ogni giorno. In realtà si dovrebbe fare, ma noi ricordiamo sempre, anche una giornata dell'acqua. Perché questo non un problema maggiore, un problema uguale, identico, di una gravità enorme, perché ai palestinesi è stato rubato l'acqua, tutta la zona della valle del Giordano, loro devono pagare la loro acqua, mentre gli israeliani, con gli insediamenti normali, diciamo, e quelli avamposti dei coloni, hanno piscine, loro hanno, si calcola, 24 volte più l'acqua a disposizione dei palestinesi. Hai menzionato prima in Gaza, ma Gaza è peggio, proprio un boicottaggio totale da parte di Israele, anche su pressioni delle Nazioni Unite o altri, fanno così a contagocce arrivare del materiale dopo l'ultimo attacco del 2000, quando è stato il 14, credo, 14 non si contano più, era margine protettivo, quello lì con 1400 morti e migliaia di feriti. Allora, non è cambiato quasi nulla, noi siamo sempre in contatto con loro e, tra l'altro, chi vuole può sempre informarsi via internet. Hai menzionato la situazione dei pescatori. Loro, gli israeliani, contro ogni legge internazionale, permettono soltanto poche miglia ai pescatori di uscire. Che cosa è successo la settimana scorsa? Ma nessun giornale, magari a volte il manifesto ne parla, hanno di nuovo ucciso due pescatori, perché, ma non per cattiva volontà, sono usciti poche centinaia di metri fuori da questo confine da loro stabilito. Quindi la situazione diventa sempre peggio. Più tardi, comunque, volevo parlare della situazione palestinese, ma soprattutto quello che possiamo fare noi qui per la Palestina. Ci sentiamo ora un pezzo musicale. È l'OK Long Live Palestine. This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza. Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine. while we listen to tunes made by ignorant fools. Israel blocked the UN from delivering food. They bring in the troops and you won't even glimpse of the news. They make money off the products that we're quick to consume. And it's not simply a question of differing views. Forget emotions, this is facts, what I spit is the truth. Makes no difference if you're a Christian or if you're a Jew. They're just people living in different conditions to you. They still die when you bomb their schools, mosques and hospitals. It's not because of rockets, please God, can you stop this all? I'm not related to the strangers on the TV, but I relate, cause those strangers could have been me. Words could never ever explain the raw tragedy. It's not a war, they're just murdering more rapidly, and we are automatically supporting pure savagery. Imagine how you feel if this was your family. Palestine remains in my heart forever. We stand for peace, times of war, we shan't surrender. Remember, it didn't start in this dark December. Every coin is a bullet if you're Marks and Spencer. And when you're sipping Coca-Cola, that's another pistol in the holster of them soulless soldiers. You say you know about the Zionist lobby, but you put money in their pocket when you're buying their coffee. Talking about revolution sitting in Starbucks. The fact is, that's the type of thinking I can't trust, let alone even start to respect. Before you talk, learn the meaning of that scarf on your neck. Forget Nestle, Obama promised Israel 30 billion over the next decade. They're trigger happy and they're crazy. Think about that when you're putting Huggies nappies on your baby. Just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Don't get offended by facts, just try and listen. Nothing is more anti-Semitic than Zionism. So please don't bring bad vibes when you speak to me. There's plenty of rabbis that agree with me. It's your choice what you do with this message, don't get it confused. I view this from a human perspective. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I testify, my television televised, I'm telling lies. This is not a war, it is systematic genocide, but whatever they try, Palestine will never die. Sing it with me now. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza. Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza. Ritornando all'Operazione Colomba, gli volevamo chiedere a Laura anche altri particolari, ecco, rispetto a quello di cui da aggiungere a quello che ci ha detto precedentemente. Sì, mentre parlava Leonard, mi è venuto in mente che forse vanno ricordati quei trattati di Oslo del 93, in cui purtroppo, diciamo, ci sono stati dei patti che hanno fatto sperare, hanno fatto credere che si poteva creare uno Stato della Palestina, ma molte cose erano state lasciate in sospeso. In particolare, per esempio, la questione dell'acqua, di cui si parlava poc'anzi, è messa in modo tale che i palestinesi hanno l'obbligo di non scavare sotto, mi pare, 10 metri. Naturalmente la falda è un po' più bassa e quindi loro, se scavano, scavano illegalmente, diciamo così. E questi pozzi allora poi gli vengono chiusi, buttati cioè diciamo viene buttata sopra con le ruspe, la terra. Io queste cose l'ho visto, ho visto distruggere le stalle, le cose. Quindi l'acqua, appunto, mentre un israeliano normale di Tel Aviv, diciamo poveraccio, paga, mettiamo 8 shekel al metro cubo, un colono paga 4 shekel al metro cubo, I palestinesi pagano 36 shekel al metro cubo, la stessa acqua che è la loro acqua che sta lì sotto. Questa è la ragione per cui, per esempio, noi di Operazione Colomba dobbiamo andare a prendere l'acqua al pozzo, il pozzo del villaggio, vi assicuro che è una cosa faticosissima, tirar su a mano i secchi dell'acqua, portarseli a casa, l'acqua naturalmente poi bisogna bollirla, eccetera. E quindi noi, per esempio, abbiamo un'altra, una specie di appartamentino a Betlemme dove ogni 12 giorni andiamo per lavarci, per dormire, per fare la doccia, perché questo nel villaggio è quasi impossibile, perché l'acqua costa troppo cara. Ecco. Questa è una cosa che volevo dire. Volevo dire che questi accordi di Oslo hanno diviso la Palestina in tre zone. Zona A, che sono solo le città, Nablus, Betlemme, Nazareth, poche città, anche Hebron. Ma e sarebbe sotto controllo amministrativo e militare palestinese, ma non è vero. Poi c'è la zona B, che è attorno alle città, dove c'è il controllo amministrativo palestinese e invece quello militare israeliano, e la zona C, dove è il mio villaggio Tuani, e la maggior parte della Cisgiordania è zona C, dove tutto è sotto l'egida degli israeliani, sia la parte amministrativa che la parte militare, per cui dappertutto ci sono soldati, tanti soldati con dei mitra, sono dei ragazzini di 18 anni che hanno degli M16, non so se si chiamino così, che te li puntano sulla pancia, loro stessi hanno paura, per cui magari fanno delle sciocchezze perché hanno paura. E niente, questa era l'unica cosa che volevo dire, perché credo che poi molte di queste cose le sappiate già, insomma. Ecco, volevo chiedere un'informazione per rendersi un po' conto, quanti sono gli abitanti delle varie zone, ecco, un'idea, diciamo, demografica. Complessivamente sono 3 milioni di palestinesi e 2 milioni a Gaza. Naturalmente nelle zone sono tutti molto concentrati nelle città e nelle campagne, i villaggi sono piccoli. Il mio villaggio sono 300 persone e in tutta quella zona che si chiama Massaf Eriatta sono 1500 persone in tutto, che però vivono appunto in queste condizioni. Eh sì, li volevo chiedere a Leonard, appunto Gaza, come del resto della Palestina, ma probabilmente a Gaza si evidenzia di più una sorta di prigione a cielo aperto. Ma non c'è solo una prigione a cielo aperto, c'è anche i carceri israeliani, ecco, su cui si finisce dentro per niente, molto spesso. E come? La situazione in Palestina, soprattutto in Cisgiordania, è questa. In ogni famiglia, si può dire, almeno un membro della famiglia è stato in prigione. I nostri compagni palestinesi sostengono, no, le famiglie sono piuttosto numerose e quindi ci sono anche casi, 7 membri delle famiglie e 5 sono stati o sono in prigione. Affrontiamo un caso attuale, la ragazza bionda che è palestinese. Gli israeliani non hanno nient'altro da fare, dire no, in realtà forse non è palestinese perché è bionda o che è azzurra e così via, invece è palestinese. Allora, lei ha attaccato, ma le ha dato un calcio, uno schiaffo ad un soldato israeliano, e questo all'inizio di dicembre. Tuttora è in prigione. E poi è minorenne, no? Sì, è minorenne. In prigione a gennaio ha compiuto 17 anni, appelli internazionali, finora non hanno servito a niente, ma io voglio già ora invitarvi, sottoscrivete gli appelli, li trovate in internet, Change.org ed altri, per la liberazione della Tamimi. Allora, hai chiesto circa le carcerazioni. Allora, suo padre era in prigione, suo fratello è stato, l'hanno tirato una pallottola di gomma che ha quasi distrutto la faccia. Una cosa attualissima, e per questo la AET ha attaccato già prima ha provocato, ha voluto provocare i soldati. Sua madre l'ha filmato con il telefonino, anche sua madre adesso è accusata, aspetta un processo per istigazione alla violenza e così via. Allora qui avete un esempio concreto. Il processo che doveva, la prima seduta era alla fine di febbraio, il giudice ha tanto tempo, ha rimandato la prossima seduta alla fine del mese. Ci sono nella Cisgiordania almeno 300 minorenni in prigione. Bambini, sì, sì. Allora, uno tira un sasso, potrebbe rischiare 20 anni e di più. E c'è la cosiddetta detenzione amministrativa. In realtà questo l'israeliano hanno ereditato dai turchi quando era sotto dominio ottomano. Allora vuol dire qui non c'è bisogno di un giudice. Allora loro possono mettere le persone in prigione senza habeas corpus, appunto il concetto habeas corpus, senza avere diritto ad un avvocato, possono essere dentro anche 4 settimane e se non succede nulla. Allora questo è proprio una cosa fuori da ogni democrazia, la cosiddetta unica democrazia nel Medio Oriente. E torno alla Felicia Langer. Per quale motivo è andata via da Israele? Perché è stato sempre attaccato con i suoi processi che ha fatto e ha vinto tanti processi per i palestinesi e ha sempre dichiarato Israele è un paese di non diritto. Se siamo molto generosi, una democrazia molto a sui generis. E aggiungo un altro particolare, perché dobbiamo parlare, oltre alla Cisgiordania o alla Gaza, anche dei palestinesi che vivono in Israele, perché lì in Israele ci sono circa 1,5 milioni chiamati arabi. Anche questa è un'altra strategia israeliana che evita la parola Palestina. E quindi loro sono cittadini di serie B. Scusa se ti interrompo, Leone, a me mi sembra, e probabilmente per questo c'è una grossa attenzione in Sudafrica rispetto a quello che succede in Palestina, che sia una sorta di stratificazione anche da un punto di vista giuridico, no? Proprio come era in Sudafrica anti-apartheid, cioè nel periodo dell'apartheid, cioè i bianchi, i meticci e insomma l'ABC, insomma, ecco. Io direi è peggio del Sudafrica, perché oltre all'apartheid c'è proprio una pulizia etnica che è diversa del Sudafrica. E poi possiamo dire, adesso facendo riferimento alla Cisgiordania, una colonizzazione molto speciale. Le colonizzazioni, noi pensiamo a quella britannica, francese e così via, anche italiana, in Africa, era in prima linea per sfruttare soprattutto le risorse naturali e così via, ma non la colonizzazione, occupare il paese e proprio diventare loro padroni. E questa è una cosa molto. E proprio è stato sin dall'inizio un progetto imperialistico. Allora, i britannici che hanno poi ereditato il dominio degli ottomani, poi dopo un po' volevano ritirarsi, ma soltanto a metà, in realtà hanno aiutato l'ingresso degli ebrei, l'ondata mondiale. Io posso dirvi anche qualcos'altro. Ti volevo chiedere, hai quantificato nel numero di 300 i minorenni? Sì. Però ci saranno anche i maggiorenni. Sì, sì, sicuramente. Attualmente, sai, le cifre cambiano. Se ho letto bene, 156 donne. E soprattutto i prigionieri politici. L'anno scorso, forse vi ricordate, c'è stato un grande sciopero di circa 1,200 della fame dei prigionieri politici. e qui tocco un prigioniero politico speciale per cui facciamo ogni anno almeno una volta una manifestazione, un presidio, Marwan Barghouti. Marwan Barghouti sarebbe il vero leader non coinvolto in corruzione ed altro dei palestinesi, ma gli israeliani hanno messo in prigione, hanno dato, forse Laura ti ricordi quante volte ergastolo, sì, quanto ergastoli, e lui sarebbe il vero leader. Perché in realtà Marwan Barghouti, più che un leader, certo un leader politico, però un leader popolare, ecco, sì. Non nell'apparato, diciamo. Sì. Perché questo dobbiamo dire, l'ANP e l'OLP, purtroppo coinvolti in tanti scandali, non gode di grande stima. Che cosa facciamo oltre a questo ogni anno, soprattutto la Sopace? Open Shua Street, prima Laura ha menzionato le città, dobbiamo assolutamente parlare di Hebron, lì c'è una situazione particolare, impossibile direi. Allora, supponiamo che una forza occupante venga a Firenze e occupi, diciamo, il centro, perché dicono dove ora c'è il Duomo, nelle vicinanze del Duomo, in via Martelli, c'era una volta la tomba di un nostro profeta. Allora, si permettono di occupare tutto il centro, via Martelli, via Cavour e così via, e voi che eravate, vi avevate i vostri negozi, non potete più entrare. E questa è la situazione, la situazione a Hebron, dove sono posti di blocco, i coloni che sono arrivati sono in una cattiveria inaudita, che buttano tutto giù se passa un palestinese, a volte passano, e meno male, anche gli internazionalisti che sostengono la causa palestinese e mettono giù rifiuti e altro di cui ora non si può parlare. E perciò dico, tutti noi, tutti voi potete informarvi e rendervi conto qual è la situazione. E finisce qui la prima parte dell'intervista, del racconto di quello che sta accadendo tuttora in Palestina. E ci risentiamo per la prossima volta, per la seconda parte. Vi ricordiamo, Senza Frontiere va in onda su Radio Wombat. Ciao, alla prossima puntata.